fuga polemica con l'Europa, l'Italia ha rifiutato gli aiuti. Berlusconi, le camere non si sciolgono senza il mio consenso, le donne in piazza, una manifestazione faziosa. Obama prepara il rilancio per Washington, una finanziaria all'insegna dei tagli. L'Italia aspetta il Festival di Sanremo, Morandi, siamo arrivati all'esame, siamo preparati. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. L'emergenza sbarchi è ormai senza sosta, altri barconi sono in viaggio verso Lampedusa mentre scende in campo la diplomazia. Il ministro dell'interno Maroni non usa, come avete sentito nei nostri titoli, mezzi termini per lanciare l'allarme. Allora cominciamo da qui con Andrea Viali. Sì, Anna, sull'emergenza umanitaria a Lampedusa il ministro dell'interno farà il punto nel pomeriggio in una riunione al Viminale. Maroni ha ribadito che sulla questione anche l'Europa deve fare la sua parte e stamattina ha paragonato quanto sta accadendo nel Nord Africa alla caduta del muro di Berlino. Ma sentiamo le sue parole. Ho sentito il presidente del gruppo PPE, Mario Mauro, che ha chiesto una convocazione urgente del Consiglio europeo capi di Stato e di Governo. Condivido questa richiesta perché siamo di fronte alla caduta del muro di Berlino, del Maghreb, è il nuovo 89. Per bocca di una sua portavoce poco fa, intanto, la Commissione europea ha fatto sapere di essere pronta ad aiutare l'Italia, ma si è anche detta sorpresa per le critiche partite dal nostro paese che sabato, secondo quanto riferito da questa portavoce, avrebbe rifiutato un'offerta di aiuto partita proprio da Bruxelles. Nuove polemiche, dunque, intanto stasera il ministro degli esteri Frattini sarà a Tunisi, dove incontrerà il primo ministro tunisino. Secondo Frattini è necessario ripristinare il meccanismo dei pattugliamenti che fino ad un mese fa aveva sostanzialmente bloccato le partenze dalla Tunisia. Il governo di Tunisi, dal canto suo, si è detto pronto a collaborare con gli altri paesi, ma ha anche respinto le ipotesi di dispiegare sul suo territorio forze di polizia straniere. Per ora è tutto, Anna. Grazie ad Andrea Viali. Intanto sono tutti nel centro di accoglienza di Lampedusa, i 2000 immigrati sbarcati tra sabato e domenica sull'isola. In 5 giorni sono arrivati 5000 tunisini. Un'emergenza incredibile che ha portato come prima cosa alla riapertura del centro che era stato chiuso un anno fa, ma non solo. Da una parte c'è un'apertura delle autorità tunisine e del governo di transizione a controllare le coste, dall'altra il mare che sembra increspato e poi finalmente l'Europa che si interessa al caso inviando la responsabile della diplomazia europea Ashton a Tunisi per offrire il sostegno dell'Unione al processo di transizione del potere e, si legge, affrontare le misure per frenare l'improvviso flusso di clandestini tunisini verso l'Europa. Lunedì 14 febbraio inizia a muoversi così la diplomazia. Dopo che i ragazzi e i ragazzini tunisini, quelli che hanno fatto la rivoluzione dei gelsomini, sono già in viaggio per un altro sogno. Ora però resta da vedere come si gestirà l'emergenza. Fino a domenica si andava a naso, un po' qua, un po' là. Gli immigrati hanno dormito sulle banchine del porto, nella parrocchia, nel centro sociale. Poi sono stati portati in un campo di calcio. Tutto perché non si voleva aprire il centro di prima accoglienza. Alla fine si è convenuto che non c'era alternativa. Ci racconta così il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis. Che 1800 immigrati sono all'interno del centro di prima accoglienza. Noi abbiamo avuto l'esperienza del centro per diversi anni ed eravamo convinti e siamo ancora convinti che l'apertura di un centro organizzato, dove certamente garantiva la massima dignità agli immigrati, era come un invito nei confronti delle popolazioni che tendono a fuggire e venire verso Lampedusa di dire: apriamo le porte, venite, tanto siamo ben pronti e siamo ben organizzati per poterlo fare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In tutto questo c'è anche un giallo, perché un sito in lingua araba riferisce che un barcone carico di migranti clandestini sarebbe stato speronato da una motovedetta tunisina, causando 29 morti. Dal naufragio dell'imbarcazione sarebbero state salvate 86 persone, ma la notizia non trova conferma. Maroni dice: come la caduta del muro di Berlino, l'abbiamo sentito, ma perché? Cosa c'è di diverso da altre crisi e da altri sbarchi? Io saluto, mi ha raggiunto in studio Gigi Donelli. Sì, buongiorno Anna. Beh, effettivamente forse il muro di Berlino io non lo userei come parametro, ma sicuramente il minimo che si possa dire è che l'intero sud del Mediterraneo è in una fase di complessità e caos, molto diversi tra loro in realtà. Noi siamo stati abituati in qualche modo, soprattutto nell'oriente del Mediterraneo, a seguire le fasi più complesse legate a Palestina e Israele, anche su quel fronte. Proprio oggi le notizie ci parlano di un governo in dissoluzione, ma erano altri i paesi rappresentativi della stabilità. È chiaro che l'Egitto lo è sempre stato negli ultimi 50 anni come punto di riferimento della politica occidentale, americana ed europea nella regione, non lo è più e quindi le cose mutano. In realtà bisogna ripartire dalla Tunisia, forse il paese sicuramente più piccolo della regione e che in passato era considerato più stabile. Ecco, che cosa accade proprio in queste ore? Il passaggio dopo le proteste, dopo la fine del regime di Bouazizi, è quello di un tentativo di continuità. Il primo ministro Ghannouchi è un uomo che era al governo già da 11 anni, quindi non è certo una sorpresa, ma quello che accade nelle province proprio in queste ore viene raccontato ampiamente peraltro dalla stampa tunisina ed è qualcosa di molto simile al caos. Che cosa emerge? Stamattina vi cito solamente l'editoriale del Le Temps, che è uno dei giornali, anzi il giornale di riferimento nella capitale. L'editorialista Raouf Kalsi, che è un giornalista molto noto, dice: il problema è che oggi in Tunisia la gente si sente al sicuro solamente quando c'è in presenza dell'esercito. Ecco, abbiamo parlato dell'Egitto, l'Egitto che di fatto affida il suo futuro all'esercito e l'esercito che sospende la Costituzione, la Tunisia che fa altrettanto. È chiaro che questo è un segnale impressionante se si considera soprattutto come siamo stati abituati a pensare negli ultimi 30 anni in maniera molto diversa. Algeria, Tunisia, Egitto, la Libia di Gheddafi sarà la prossima. La Libia di Gheddafi reagisce. Gheddafi, come sempre, uomo che annusa il vento, e quindi cosa fa? Porta addirittura la gente in piazza. Lo ha fatto nel fine settimana, l'occasione era l'anniversario della nascita di Maometto. La stabilità, il controllo anche dell'apparato libico è molto forte. Gheddafi allora festeggia innanzitutto con i suoi comitati rivoluzionari, festeggia il popolo egiziano e dice: fantastico, siete stati capaci di portare aria fresca, vento fresco. Naturalmente lui non può che avvantaggiarsi da un'instabilità del grande vicino egiziano, ma dice, manda anche un messaggio che come sempre è va analizzato. Lui dice: avete preso il potere tramite un sistema democratico, attenzione a non cedere questo potere conquistato con il sangue ai partiti politici. Insomma, sembra rivendicare il suo modello, che è quello di una dittatura da 40 anni. E grazie a Gigi Donelli. Questo dunque è il quadro dell'Africa che preme verso l'Europa. Ripristinare i pattugliamenti, queste intanto sono le ultime notizie. Il ministro degli esteri Franco Frattini dice così, è in viaggio, ricordiamo, verso la Tunisia. Continueremo a parlarne nel corso della giornata. Veniamo però all'Italia, alle vicende politiche di queste ore. Replica su tutti i fronti Silvio Berlusconi il giorno dopo le manifestazioni di piazza e l'offerta di Gianfranco Fini di una via d'uscita con le dimissioni. Il premier questa mattina ha fatto sentire la sua voce. Da Roma, Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno, interviene a tutto campo. Dopo la manifestazione delle donne, il premier Silvio Berlusconi sceglie la platea televisiva di Mattino 5. Quella di ieri per il Presidente del Consiglio è stata solo una mobilitazione faziosa per sostenere il teorema giudiziario contro di lui. Ma sentiamo Berlusconi. Mi è sembrato un pretesto per sostenere il teorema giudiziario che va in questi giorni, che non ha nessun riscontro nella realtà. Ho visto la consueta mobilitazione di parte, faziosa. In realtà tutte le donne che hanno avuto modo di conoscermi sanno quanta sia la considerazione che ho per loro. Nel suo intervento il Presidente del Consiglio parla anche della proposta lanciata da Gianfranco Fini di presentare dimissioni congiunte. È una cosa paradossale dal punto di vista istituzionale che il Presidente della Camera auspichi una crisi extraparlamentare, spiega Berlusconi, è una proposta irricevibile. La maggioranza alla Camera sarà presto a 325 deputati, promette il Premier, mentre non crede ad una chiusura anticipata della legislatura, anzi non crede che sia nel pensiero di Giorgio Napolitano. Nel colloquio di venerdì al Quirinale il Presidente della Repubblica gli ha garantito che finché vi è un governo che governa e una maggioranza che lo sostiene, non esistono ragioni per terminare la legislatura. Oltretutto, dice Berlusconi, serve anche il parere del Premier per sciogliere le Camere. E per il momento sul fronte politico è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. La replica arriva anche dal segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, lo ha intervistato questa mattina a Milano Valeria De Rosa. Credo che l'amministrazione di ieri, per la loro spontaneità, stiamo parlando di un movimento di decine, centinaia di migliaia di persone che sono andate in piazza senza nessuno sforzo organizzativo, credo sia una cosa da segnalare. Stiamo parlando di una presenza femminile che, come in tanti passaggi della storia nazionale, è un elemento che è capace di suscitare una reazione etica, civica, morale, che viene prima della politica. Stiamo parlando di una giornata che ci ha riabilitato davanti al mondo, perché qui nel mondo stava passando l'idea che l'Italia è proprio così, tutta così. No, no, ieri il mondo ha visto che l'Italia non è tutta così. E quindi credo che da ieri sia partito un segnale molto forte. Ieri è stata una giornata anche di semina. Sì, ma con l'indignazione non si fa cadere il governo. Politicamente che cosa succede adesso? Ma sa, con l'indignazione non si fa cadere il governo. Non sono d'accordo, perché se fosse più corale l'indignazione e se cioè ci fosse anche un pezzo della cosiddetta classe dirigente che dicesse basta, ma non perché siamo puritani, ma perché vediamo tutti che l'Italia così va allo sbando, non può affrontare i problemi. Ecco, se più coralmente anche pezzi di classe dirigenti che fino adesso hanno taciuto parlassero, credo che il risultato ci sarebbe, perché naturalmente nel Parlamento c'è l'impasse che sappiamo. Un qualche voto lo si compra sempre nelle condizioni di Berlusconi. Così dice Pierluigi Bersani. Le donne che dicono: a Roma applauditissimo ieri è stato l'intervento di Suor Eugenia Bonetti, missionaria della consolata che dopo 24 anni in Africa si occupa di emarginazione in un centro Caritas di Torino. Sentiamola al microfono di Paolo Piacenza. Quello che abbiamo visto, quello che abbiamo sperimentato è veramente la grande forza delle donne. Le donne che come sempre sono artefici anche di certi cambiamenti, sono artefici anche di mentalità nuove, sono artefici di una vita che deve assumere veramente maggiormente il rispetto della dignità, dell'accettazione di ogni persona. E quindi è stata un'esperienza che molto positiva dal nostro punto di vista, anche come religiose che eravamo presenti, proprio per offrire anche il nostro contributo, perché noi in modo particolare siamo sempre a contatto con tante emarginazioni ed è proprio la forza del nostro stare insieme, di lavorare insieme, che può fare la differenza. Ci sono tante anime in questo movimento, anche molto diverse tra loro, parte anche da una iniziativa di un comitato dichiaratamente femminista. Come si salda questo invece con altre sensibilità, come quelle che per esempio vengono dal mondo cattolico? Ma non è la questione di un mondo femminista, no. Ci siamo trovati insieme come donne, ciascuna con la propria visione, il proprio passato, la propria vita, i propri desideri, i propri valori. Il Presidente del Consiglio ha definito la manifestazione di parte faziosa. Lei cosa replica, se ritiene di replicare? Ma guardi, la gente può dire quello che vuole perché lo vedono da punti di vista diversi. Per noi è stato positivo il fatto stesso che abbiamo potuto dire quello che veramente volevamo offrire come contributo, come donne, come suore, come persone che lavorano veramente in questi campi dell'emarginazione, perché noi stiamo vivendo veramente certe situazioni. E allora ciascuno può dire quello che vuole. E noi lasciamo con questo la politica, perché per gli italiani comincia intanto la settimana di quello che è ancora un rito, magari un po' appannato dal tempo. Sta facendo le valigie anche la nostra Marta Cagnola, che però ancora per poco è qui accanto a me. Sanremo è ancora Sanremo? Sanremo è ancora Sanremo, secondo me sì, valigie fatte, siamo in partenza per seguire il festival durante tutta la settimana per Radio 24. Rito appannato? Non lo so, l'anno scorso ascolti altissimi, anche due anni fa ascolti veramente a record per tutta la settimana di Sanremo. Gianni Morandi proprio in questi istanti sta parlando alla prima conferenza stampa del Teatro Ariston, anche se poi domani sarà il primo giorno clou perché cominceremo oggi a sentire le canzoni in prova. Beh, insomma, insomma, ma Morandi ha detto che si aspetta un 4-0, cioè di vincere gli ascolti in tutte le serate del festival. Per il resto, di cosa si è parlato finora? Ovviamente dei fidanzati, perché pare che sia un argomento molto interessante. Io non riesco, è San Valentino, ad... sì, oggi, io oggi non riesco ad appassionarmi tantissimo a questi due fidanzati, no. Però Corona è arrivato ieri sera, ma ha promesso che se ne andrà. Giorgia a Los Angeles per un film, quindi Elisabetta si augura che in qualche modo lui riesca a guardare il festival. Insomma, abbiamo, che le lasciano lavorare. Abbiamo esaurito la pratica fidanzati, prometto. Per il resto, beh, insomma, c'è molta tensione, molta preoccupazione, perché alla fine la Rai si gioca sempre molto in termini di raccolta pubblicitaria. Quest'anno c'è un elemento in più, quello del televoto. L'anno scorso molte polemiche per l'impiego di call center. La Gcom quest'anno ha fatto un regolamento che vieta questo tipo di pratiche scorrette. Ebbene, il direttore artistico Mazzi qualche istante fa ha dichiarato qualcosa di molto importante: chi facesse uso di questi call center per modificare il giudizio del voto rischia l'espulsione dal festival. Interessante. E vedremo che succederà. Le 13:19 minuti, le notizie di oggi di GR24. In Tunisia, come la caduta del muro, dice il ministro Maroni, polemica con l'Europa, l'Italia ha rifiutato gli aiuti secondo Bruxelles. Non è vero, risponde il ministro dell'Interno. Berlusconi, le camere non si sciolgono senza il mio consenso, le donne in piazza, una manifestazione faziosa, dice il premier. L'Italia aspettiva il Festival di Sanremo, Morandi promette vittoria per 4-0. Obama prepara il rilancio, per Washington una finanziaria all'insegna dei tagli. E ripartiamo allora proprio da qui, andando negli Stati Uniti. Mario Platero. Fra poche ore il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, invierà al Congresso americano il suo bilancio federale per l'anno fiscale 2012, che comincerà il prossimo settembre. Sarà un bilancio controverso, non abbastanza decisivo per ridurre la spesa pubblica e dunque il disavanzo dello Stato come vorrebbero i repubblicani. Ci sono le premesse, secondo alcuni, per uno scontro se non si raggiungerà almeno un accordo preliminare entro il 4 di marzo. Potrebbe esserci una paralisi dello Stato americano. I repubblicani smentiscono naturalmente. Barack Obama chiede un taglio decennale di 1.100 miliardi di dollari come parte di questo bilancio. 400 miliardi deriveranno dalla sua proposta di congelare la spesa pubblica. Una riduzione delle spese del Pentagono grazie alla diminuzione del costo della guerra in Iraq e molti altri dettagli. Affronterò l'argomento più tardi ad America 24. Grazie Mario Platero, l'appuntamento vi ricordo con America 24 alle 13:45. Dietro l'America ormai la Cina è diventata la seconda economia mondiale, scalzando il Giappone. Se il dato pareva ormai certo, la missione è arrivata oggi direttamente anche da Tokyo. Il commento di Alberto Forchielli. Il sorpasso del PIL giapponese da parte del PIL cinese era scontato, si sapeva da anni, anche in base alle proiezioni, si è saputo a metà anno. La novità sta forse nel fatto che il Giappone lo ammette con dignità, ci sono anche ragioni economiche, perché l'interscambio Cina-Giappone è fondamentale per la sopravvivenza dell'economia giapponese in questo momento. Credo che la Cina sia il più grande recettore di investimenti giapponesi, il più grande mercato d'esportazione di beni giapponesi, e nei confronti della Cina il Giappone ha un surplus commerciale. D'altro canto rimane sempre questa spaccatura storica, perché il Giappone, al contrario della Germania, non ha mai fatto il grande pentimento collettivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per cui i libri giapponesi ancora raccontano la storia in modo diverso da quelle cinese, per cui diciamo che il feeling politico non si è mai ricomposto, non c'è mai stato il grande abbraccio franco-tedesco di Verdun tra Mitterrand e Kohl. E all'estero restiamo. Dopo oltre due settimane, gli ultimi manifestanti hanno lasciato questa mattina piazza Tahrir al Cairo. Intanto è giallo sulle sorti di Mubarak, che sarebbe in coma. Io saluto ancora una volta Alberto Negri. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, come dicevi tu, la piazza si è svuotata questa mattina verso 9:30-10 degli ultimi manifestanti rivoluzionari. È arrivata la Guardia Repubblicana e li ha portati via, ma se la piazza Tahrir si era appena svuotata, che già si riempiva di altri manifestanti, cioè di lavoratori, di tutti i settori possibili e immaginabili che chiedono aumenti di stipendio, migliori condizioni di vita. Sono scesi in piazza dipendenti di ministeri, lavoratori dello sport, quelli del turismo, nelle banche ci sono dei comizi, insomma un po' dovunque i cairoti, gli egiziani, scendono a reclamare non soltanto che Mubarak non torni più, come pare ormai evidente, ma che soprattutto le condizioni di vita in Egitto migliorino. Grazie ad Alberto Negri. Torniamo in Italia per parlare di scuola ed economia, due mondi che provano ad essere sempre più vicini. Il servizio. Dalla crisi economica alla Fiat alle quote rosa, una lezione a tutto campo, quella del consigliere delegato Corrado Passera nell'ambito dell'iniziativa dell'Osservatorio Permanente Giovani Editori sulla cultura finanziaria a scuola, in questo caso il liceo Romano Socrate, dove gli studenti hanno potuto porre le loro domande. Obiettivo del progetto: costruire un percorso di educazione finanziaria per i giovani affinché sviluppino maggiore consapevolezza e siano in grado di affrontare meglio le scelte per il proprio futuro. La crisi non è ancora finita, ha detto Passera ai giovani, parlando di un mercato del lavoro troppo rigido, mentre per la crescita, ha detto, dobbiamo fare tutti di più, rispondendo a chi gli chiedeva un giudizio sulle misure del cosiddetto piano crescita varato dal governo, poi così sulle quote rosa nelle società quotate in borsa. Una cosa che va incentivata in tutte le aziende, credo che almeno nelle aziende quotate sia molto ragionevole che venga reso obbligatorio. Infine un giudizio sulla possibile candidatura del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi alla guida della BCE. Draghi è una delle persone migliori che abbiamo in Italia e in Europa, per cui siamo tutti con lui. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca, gli inquirenti precisano sugli scavi in corso sul ciglio dell'autostrada A14 ad una decina di chilometri da Foggia per trovare, a quanto si è saputo, due cadaveri. La ricerca non sarebbe collegata a quella delle due gemelline scomparse, ma alla vicenda di un pregiudicato. Le 13:25 minuti 30 secondi in questo istante, apriamo la pagina dello sport con un personaggio indimenticabile e indimenticato, Dario Ceccarelli. Sì, Anna, hai detto bene. Parliamo di un personaggio indimenticabile che è Marco Pantani, perché se oggi è il 14 febbraio, l'anniversario della sua morte, nel 2004 morì nel modo che sappiamo in un malinconico albergo di Rimini, moriva per overdose di cocaina. È una cosa che ha lasciato così l'Italia scioccata, anche perché Pantani era il mito, il corridore, quello che aveva rinverdito i fasti di Coppi, era il grandissimo personaggio che era nel cuore di tutti. In questi ultimi anni, su questa vicenda, tra l'altro anche della sua morte, ci sono state molte cose dette, non dette, punti inesplorati. Addirittura un collega francese dell'Equipe, Philippe Brunel, ha scritto un libro in cui si adombra l'ipotesi che sia successo qualcosa di non chiarito, che la polizia non abbia indagato bene. Si chiama Gli ultimi giorni di Pantani, però io credo che così non sia. Sette anni dopo, insomma, il tempo ha chiarito quel che accadde, fu lasciato solo? Ma ecco, questa è la grande domanda. Io penso che purtroppo Pantani, dopo le vicende della squalifica, del doping, eccetera eccetera, prima aveva troppa gente attorno, amici troppo deferenti o colpevolmente complici, che a un certo punto non gli hanno detto basta Marco, dopo la squalifica torna in sella e fai quello che devi fare. Poi quando Pantani si è trovato solo, perché si è scontrato con un mondo troppo grande di lui, a quel punto era talmente solo che è stato difficilissimo recuperarlo, non si faceva più trovare eccetera, ed è stato lì che l'uomo si è sentito solo, ed è un peccato perché uno come Pantani avrebbe potuto gridare i 420 che cos'era il doping, quella cosa che ancora adesso, come abbiamo visto col caso Ricco, continua a colpire il mondo del ciclismo. È ancora il tema. Grazie anche a Dario Ceccarelli. Noi ci fermiamo qui con GR24 in regia Fabio Cantadori. Prossima edizione alle 14. Una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.